versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui dagli studi di Milano della radio. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, come al sempre vi ricorda l'indirizzo della trasmissione per mandarci proposte, per proporvi direttamente con la vostra storia, se ha, come ovvio, un'evidenza problematica per tutti, e anche per ovviamente mandare critiche e ottenere risposte. Comunque l'indirizzo è versione di Oscar @radio24.it. E vi dico subito, oltre agli auguri a chi si chiama Dionigi o San Dionigi, di che cosa parliamo oggi. È un tema un po' delicato, devo dire, l'idea mi è venuta stamattina, quindi per un giorno non è su vostra segnalazione, ogni tanto uso anch'io la mia testa, ma mi è venuta stamattina sfogliando i giornali. Avrete sicuramente visto la notizia di ieri, cioè la doppia condanna che l'Italia a 14 anni dai fatti del G8 di Genova del 2001 ha rimediato alla Corte Europea dei Diritti Umani, la Corte di Strasburgo, perché il trattamento inflitto dalla polizia ai manifestanti alla caserma di Bolzaneto e non solo, secondo la Corte Europea dei Diritti Umani, primo, è da qualificare come vera e propria tortura. Secondo, il nostro paese è inadempiente perché non ha nella sua legislazione il reato di tortura, ed è gravissimamente inadempiente perché in realtà sono passati 65 anni dalla Convenzione Europea che tratta dell'argomento e 31 anni dalla Convenzione di New York. Sono convenzioni ratificate dall'Italia ma i cui effetti nella nostra legislazione ordinaria non ci sono, perché il reato, a differenza di quanto non capiti in altri grandi paesi occidentali ed europei, non c'è, ed è il Parlamento che adesso sta esaminando l'ipotesi di come introdurlo, con quali pene edittali, quali aggravanti e così via. Ma perché mi ha lasciato perplesso la lettura dei giornali di oggi? Perché voi sapete che abbiamo avuto un procedimento che è andato avanti fino a alcune condanne che hanno riguardato ufficiali di polizia che erano operativi sul campo a Genova in quelle ore terrificanti, e che le sentenze sono arrivate nel 2012. Ma sfogliando i giornali di oggi ho avuto un'impressione, per così dire, ed è il tema che io pongo agli ospiti di oggi, che hanno idee diverse, ma li ho chiamati apposta per questo, per sentire come la pensano loro. Tema che io mi pongo, che è di una certa delicatezza, perché nella mia professione lunga di giornalista ho toccato con mano più volte che si tratta di una potenza vera, che per moltissimi anni in Italia ha esercitato un potere reale molto forte, a prescindere di chi fosse al governo, di quali fossero i colori politici dei governi che si susseguivano, e cioè chi è stato per molti anni ai vertici della polizia, sto parlando di Gianni De Gennaro, e che oggi, che lo era naturalmente durante i fatti del G8 di Genova, e che oggi è presidente di Finmeccanica, una delle più grandi aziende di Stato e quella all'avanguardia nelle tecnologie di difesa e sicurezza. Un presidente di Finmeccanica fortissimamente voluto, lo sappiamo tutti, lo abbiamo scritto, dal capo dello Stato, dall'ex capo dello Stato Napolitano in quella posizione. Ebbene, vedendo i giornali stamattina, io mi sono posto il problema, vista la totale, quasi assenza di riferimenti al capo della polizia dell'epoca, se non ci sia un non detto grande come una casa su questa vicenda, che riguarda appunto un fulcro dei poteri reali della Seconda Repubblica, impersonato nel capo della polizia Gianni Di Gennaro, che operò anche negli anni immediatamente successivi, nei mesi addirittura immediatamente successivi ai fatti di Genova, la promozione di tutti coloro che poi sono risultati condannati nel 2012, è un problema tanto rilevante che ancora oggi stentiamo ad parlarne, per così dire. Ecco, allora, è un problema rilevante perché, come ovvio, il tema è molto delicato. In primis io vorrei che fosse chiaro a chiunque sia in ascolto oggi che non stiamo parlando in alcun modo della giustificazione delle violenze, dei danni al patrimonio privato, di tutto quello che avvenne da parte di frange dei manifestanti a Genova. È ovvio che non stiamo parlando di questo, in quel caso la condanna non può che essere ferma e la giustizia procede. Ma noi stiamo parlando di una questione diversa e delicata, cioè di quali devono essere i limiti ferrei e inderogabili che le forze di polizia devono avere nel trattare i manifestanti. E quindi non vorrei che fosse equivoco il tema della puntata. Il tema della puntata non è il giustificazionismo delle violenze dei manifestanti. Il tema della puntata è: se ci abbiamo messo tanti anni a delle condanne in base a delle fattispecie di reato che ancora oggi non sono quelle degli altri paesi avanzati. A. B. Se il più dei condannati in realtà era stato promosso e al processo infatti portò le proprie promozioni come elementi al proprio discarico. C. Se ancora oggi non si pone esplicitamente il punto, ma il capo vero della polizia e di chi operava sul campo, com'è che ancora oggi non viene in qualche modo, associato a quello che avvenne quella notte, non è che c'è un problema, vero? Quando io dico, e finisco questa brevissima introduzione perché poi vado agli ospiti, quando io dico che fu il capo della polizia a, legittimamente dal suo punto di vista, non discuto, a promuovere tutti coloro che erano sul campo a Bolzaneto e così via, e i nomi bisogna farli per ricordarveli, perché non è detto che tutti quanti ovviamente siate addentro, però voglio dire, il capo del servizio operativo della polizia, l'SCO dell'epoca, Gratteri, che poi è stato condannato a 4 anni di reclusione nel 2012, che non era a Genova e fu poi promosso fino a diventare capo dell'anticrimine in Italia. E idem il suo vice, che si è beccato una condanna a 3 anni e 8 mesi. Il capo della mobile della Spezia dell'epoca, Filippo Ferri, che era a Genova, anche lui poi è stato condannato, guarda caso è finito capo della sicurezza interna al Milan. Il capo del reparto dei Celerini, che è stato più protagonista delle violenze nei confronti di decine e decine di manifestanti italiani e internazionali a Bolzaneto, cioè Vincenzo Canterini, è in pensione, ma divenne subito dopo vicequestore, e così via. Cioè, l'elenco dei responsabili operativi, dei poliziotti di quella sera, è un elenco che fa vedere come negli anni successivi non ci fosse alcun dubbio da parte dei vertici della polizia e di chi la comandava. Come la mettiamo allora di fronte alla sentenza europea? La vogliamo considerare un'impropria invasione di campo nella sovranità italiana, o c'è un problema di non detto grande come una casa? Ecco, questa è la mia semplice domanda, e questa domanda la giro ai nostri due ospiti. Abbiamo con noi Chioci, il direttore del Tempo, grazie di essere con noi oggi pomeriggio, direttore. Grazie a voi, buongiorno. E Barbacetto, che lo prendo come, diciamo, uno dei giornalisti che da questo punto di vista in Italia è stato più intransigente e tosto nello scrivere su queste vicende e nel rilevare come dal suo punto di vista non ci si debba ora stupire se a distanza di tanti anni, insomma, arriva una condanna come quella di Strasburgo. E comincerei, dopo averlo ringraziato, buon pomeriggio Barbacetto. Buon pomeriggio a voi. Io comincerei proprio da te. Questo non detto che riguarda l'allora capo della polizia, oggi presidente di Finmeccanica, secondo te è una mia sbagliata impressione, oppure che cosa vuol dire? Ma lì bisogna ricapire, ripercorrere che cosa è successo, no, in quei giorni, e vedere che il ruolo di Gianni De Gennaro è stato importante, fondamentale in quella vicenda. Perché che cosa succede? La Diaz, l'incursione alla Diaz avviene praticamente a G8 finito, a manifestazioni finite, no? Lì ci sono stati i giorni del G8 con le manifestazioni, gli scontri, il morto, da quei giorni la polizia usciva con un grosso fallimento, perché non era riuscita a fermare i Black Bloc, non era riuscita a garantire l'ordine pubblico, non era riuscita a far nulla sostanzialmente. Il sabato Gianni De Gennaro, esauto, cioè l'ultimo giorno quando ormai le cose sui giochi sono fatti, Gianni De Gennaro, che resta a Roma, capo della polizia allora, e non è sul campo, non è a Genova, esautora l'uomo che era stato mandato sul campo, cioè Andreassi, sì, e spedisce a Genova i suoi, che sono i nomi che tu avevi fatto, certo. Gratteri, la Barbera, soprattutto Gratteri e la Barbera, sì, ma anche Calderozzi, Luperi, eccetera. Manda i suoi uomini, come dire, qua bisogna fare qualche cosa, perché sennò di fronte all'Italia, di fronte al mondo, facciamo la figuraccia di quelli che non sono riusciti abbiamo preso sassi e ingiurie e non abbiamo garantito l'ordine in quella città. A quel punto viene inventato il metodo dei pattuglioni, cioè la polizia organizza delle grosse pattuglie di uomini che girano per Genova lo scopo era cercare di arrestare i Black Bloc, che invece erano rimasti belli indisturbati e continueranno a rimanere indisturbati. A un certo punto il pattuglione che passa sotto la Diaz viene fatto oggetto di urla e anche di qualche viene tirata addosso qualche cosa, bottiglie di plastica, cose, niente di particolarmente grave e violento, dalle finestre della scuola Diaz dove stazionavano e dormivano nella notte di una parte dei manifestanti. E torna, riferisce ai capi questa cosa e da lì nasce l'idea sciagurata, no, di andare a fare una sorta di vendetta, no? Di espugnare la Diaz, di massacrare tutti quelli che ci sono dentro, che stavano dormendo, che non erano affatto Black Bloc peraltro, alcuni erano giornalisti, massacrati perché bisognava dare una prova, come dire, di forza sostanzialmente, no? Dimostrare che qualcosa si era fatto. Allora, assalto alla Diaz come fosse quello il luogo, il quartier generale del Black Bloc, cosa che non era assolutamente. Dopodiché, addirittura appunto vengono portate delle Molotov dai poliziotti che non c'erano all'interno della Diaz, e questo è stato provato. Ha fatto acclarato, sì, processualmente. Vengono portate e si vedono le immagini in cui i vertici si passano questa borsa blu con dentro le bottiglie incendiarie che avevano portato da fuori viene raccontato che sono state ritrovate all'interno della scuola Diaz per ipotizzare che appunto questo fosse il quartier generale dei violenti. La verità è che quello che avviene quella notte è quello che viene detto da un poliziotto, cioè un massacro messicano. Macelleria messicana. Questo è quello che avviene e da lì in poi la polizia, tutti i suoi alti vertici, differa l'operato e gli uomini che hanno fatto questo, e per cui Gianni De Gennaro, diciamo, non era sul campo, non ha partecipato alla riunione a Genova che ha deciso di andare alla Diaz a farla pagare ai Black Bloc, che peraltro non c'erano, stava a Roma. Certo c'erano Gratteri, La Barbera, Calderozzi, Luperi, c'era Canterini, c'era Colucci, questore allora di Genova, e tranne Andreassi era quello appunto esautorato che si è tirato fuori. Ma gli uomini di De Gennaro, quindi De Gennaro che cosa? Ha la responsabilità istituzionale di quello che è stato fatto nella notte della Diaz, non sono state dimostrate responsabilità dirette, perché non c'è il suo ordine andate massacrate, e quindi questo è una storia iniziata male, quella del G8 di Genova, perché è iniziata sulla base di una serie di dispacci e di avvertimenti dei servizi segreti che già nei mesi prima del G8 disegnano uno scenario allucinante, dicono che da tutto il mondo stanno arrivando, cioè che alzano, diciamo, il livello di adrenalina nelle forze dell'ordine in maniera del tutto ingiustificata. Addirittura ci sono dispacci dei servizi, rapporti dei servizi segreti che dicono che ci sono gruppi che stanno confluendo a Genova portando sangue infetto, cioè addirittura lanciano l'allarme sangue infetto, cioè c'è un impazzimento dell'intelligence e di conseguenza di chi poi sul campo tenere la piazza, la polizia e i carabinieri, che è assolutamente ingiustificato, perché c'era una massa di persone che non avevano nessuna voglia di fare casino, c'era un piccolo nucleo di persone, i Black Bloc, che invece erano venuti lì per fare il più casino possibile. Sono stati lasciati indisturbati questi ultimi ed è stato attaccato il grosso del corteo con le conseguenze che poi che adesso sono note. Però cioè, tu dici il capo della polizia ha la responsabilità, beh, a me sembra che questa responsabilità continui a essere elusa, può essere che mi sbaglio. Adesso abbiamo un minuto di pausa e poi torniamo con la controtesi, per così dire, anche se non mi permetto ovviamente di dire che cosa ci dirà il direttore del Tempo Gianmarco Chiocci, e intanto avete sentito la ricostruzione di Gianni Barbacetto del Fatto Quotidiano. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati a parlare di un problema che si pone dopo la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo relativa ai fatti del G8 di Genova del 2001, doppiamente colpevole l'Italia, dice la Corte di Strasburgo, primo perché fu tortura quella notte, dopo l'eruzione alla Diaz, la scuola Diaz, e poi perché siamo ancora inadempienti per l'introduzione di quella fattispecie che ovviamente deve prevedere anche tutte le aggravanti del caso quando sono le forze dell'ordine e di sicurezza dello Stato a rendersene responsabile. Allora, abbiamo sentito la tesi di Gianni Barbacetto e sono curioso a questo punto di sentire il direttore del Tempo Gianmarco Chiocci se al suo giudizio in qualunque altro paese dopo una vicenda simile, le condanne che sono arrivate al 2012 eccetera eccetera, e con Gianni De Gennaro, capo della polizia, oggi presidente di Finmeccanico, esiste o non esiste ancora una lunga ombra, per così dire, della lunga epoca di potere esercitata nelle istituzioni italiane da Gianni De Gennaro, allora capo della polizia. Che dice, direttore? Allora, dico che intanto io sono sempre molto distante dalle tesi di Barbacetto, su tante cose che lui ha detto convergo, su molte altre no, nel senso che l'ombra è lunghissima, nel senso che non c'è chiarezza su tantissime cose, cominciare dal fatto che, come dicono tutte le persone che hanno insomma testimoniato al processo, sulla Diaz non si sapeva chi comandava, comandavano tutti, uno, nessuno, 100.000. Io ho scritto un libro con il comandante Canterini, il quale ricorda, e poi anche riscontrato dagli atti processuali, che insomma lui a un certo punto, siccome aveva il compito operativo proprio di intervenire, essendo il capo del gruppo ad hoc per l'ordine pubblico, di intervenire, ci fu una riunione molto frettolosa, lui disse che gli sembrava una follia andare alla Diaz perché in quel modo lì, cioè con una perquisizione, sfasciando tutto eccetera, lui disse: ma buttiamo dentro due o tre lacrimogeni, così escono come avviene in tutti gli sgomberi degli immobili occupati, cioè non ci va mai nessuno. In quel frangente lì venne accantonato, venne messo da parte, gli venne dato l'ordine di non praticamente di rompere le scatole e di eseguire gli ordini che arrivavano non si sa bene da chi, cioè l'ordine era quello comunque di andare dentro, perché effettivamente, come ha detto Barbacetto, vi erano informazioni di, addirittura Cantini racconta che gli erano stati raccontati della presenza di alcuni terroristi. Ovviamente i terroristi non c'erano, ma Barbacetto omette di dire quello che emerge dal processo e dalle telefonate al centralino del 113 e del 112, che cioè all'interno della Diaz, prima dell'arrivo del pattuglione della polizia, dei carabinieri, eccetera, eccetera, i vicini della scuola, tutti inquilini che abitavano nei palazzi di fronte, vedevano scappare dai tetti tutta gente vestita di nero, e quindi evidentemente forse qualcuno c'era. Questo non toglie che ovviamente il modo con cui è stato deciso il blitz alla Diaz è una cosa che non sta in cielo né in terra da nessuna parte. Nel processo è emerso anche dell'altro. È emerso ad esempio che è quella, diciamo, la versione che dà Canterini e i suoi uomini, che c'erano effettivamente delle cose agghiaccianti. Loro trovarono dentro la scuola situazioni imbarazzanti, mai vissute in nessun altro tipo di scontro agli stadi, in piazza eccetera, cioè persone pestate in malo modo. E secondo il racconto di Canterini e di tutti i suoi uomini, che è un racconto univoco, cioè lì ci sarebbero stati altri poliziotti che non sono mai emersi al processo, che con la scritta polizia sulla pettorina avevano fatto quella che poi un altro poliziotto racconterà essere la macelleria messicana. Ora, mi fa piacere che insomma giustamente si continua a parlare da dietro, perché è stato un episodio assolutamente vergognoso, e di questo io ne racconto nel libro, dove anche Canterini non lesina accuse nei confronti dei vertici della polizia. Però ecco, noi liquidiamo un po' troppo spesso questa, quello che è successo a Genova, cioè, che è successo a Genova, che nessuno si ricorda mai, cioè una città per due giorni completamente non in mano a un gruppetto, poche pecore nere, ma a migliaia di persone che hanno messo a ferro e fuoco una città. E quindi dopo tanto tempo noi sappiamo che di quelle migliaia di persone che hanno partecipato a scontri devastato, cioè chi era a Genova, io c'ero, insomma vedeva una città che nemmeno a Beirut era così. Sì. Però alla fine ne sono stati condannati 4-5. Ora va bene, il problema qui si sposta e torniamo al, diciamo, all'argomento principale. De Gennaro viene evocato in tutti i misteri d'Italia, da Andreotti, sì, a Contrada, sì, esatto, alla gestione dei pentiti, liberazioni, agli arresti di grandi mafiosi, casualmente, sempre, ogni qualvolta c'era un governo nuovo che entrava in carica dopo qualche settimana, un po' come carta di accreditamento, eccetera. Esattamente, quando governava la destra la sinistra lo attaccava, quando governava la sinistra la destra lo attaccava, è sempre stato un personaggio, voglio dire, delle istituzioni, un personaggio che si è trovato di fronte ad affrontare situazioni oggettivamente complicate. In questa storia di Genova è risultato, cioè è stato assolto con la formula più ampia. Certo, però non bisogna nascondersi di un dito, che il casino, perché questo, di questo parlano i poliziotti che stavano lì sul campo, che si è verificato a Genova, non ha una spiegazione logica. Canterini dice, ci hanno mandato lì per vendicare una, sì, giornata andata male, come diceva Barbacetto, questo. Esatto, con quello, infatti, con questo sono d'accordo con lui. Ma purtroppo però, cioè, la responsabilità penale è personale, quindi chi ha sbagliato... E questo sono d'accordo, io non sto chiedendo, ci mancherebbe altro, di ribaltare l'istanza che proscioglie De Gennaro. Mi pongo una questione di opportunità, cioè il presidente del PD, Orfini, ha fatto un Twitter, che qui è finito sulle agenzie, che vi leggo testualmente, lo leggo entrambi perché chiedo a un minuto a entrambi la vostra opinione, e dice... Orfini, presidente del PD, lo dissi quando fu nominato, lo ripeto oggi dopo la sentenza, trovo vergognoso che De Gennaro sia presidente di Finmeccanica. Qui non si parla di responsabilità penale, ma certo il capo della polizia, rispetto a quello che avete entrambi da punto di vista descritto, beh, prosciolto e sono contento penalmente, ma insomma, voglio dire, non è che possiamo far finta che non fosse lui il capo della polizia che aveva mandato quelli a dire il giorno dopo adesso voi dovete ripristinare con la forza il controllo dell'ordine pubblico. Che pensi, Chiocci, di questa dichiarazione di Orfini? È sbagliata? Forse ha altri problemi interni di cui dovrebbe parlare, ma voglio dire, uno che esce indenne da un processo assolto, perché? Cioè, perché bisogna comunque, qual è l'opportunità politica? Io non la vedo, cioè, secondo me se il presidente Napolitano ha tanto insistito per metterlo lì, secondo me, visto come sono andate le cose, visto che poi obiettivamente lì a Genova anche le persone che sono state poi condannate, che avrebbero pure avuto il gioco facile a scaricare il comandante, non lo hanno fatto. Ora non penso che tutti quanti di fronte alla prospettazione di una condanna personale, cioè, non si vadano a immolare per il capo, quando poi il capo, secondo altri, questo è legittimo che tu lo dica, no? Perché se si rischiano anni di carcere, uno dice, allora a questo punto dico, mi difendo e dico è stato lui. E chiudo, Oscar, dicendo, e tutto ciò poi si ricollega anche, insomma, a questa levata di scudi di questo partito trasversale antipolizia, che in questa sentenza di Strasburgo ricalca nuovamente questo problema della tortura, che sicuramente è una cosa, insomma, da affrontare. Il problema è che in Italia purtroppo ormai per tortura si allarga a qualsiasi tipo di interpretazione psicologica di qualsiasi ok tipo. Quindi tu dici, andiamoci piano, che dice Barbacetto della dichiarazione di Orfini? Ma io dico che è di buon senso e cerco di spiegare perché. Allora, io non voglio far parte, non faccio parte del partito trasversale contro la polizia, ma dico che le cose successe la notte della Diaz sono una cosa contro la polizia, e un capo della polizia che fosse davvero custode dell'istituzione delicatissima che è la polizia in un paese democratico avrebbe dovuto non dico cacciare, ma insomma fare i conti, tanto chiedere scusa agli italiani, al mondo che guardava l'Italia del G8 allora e ai poveretti massacrati nella macelleria messicana. Non lo ha mai fatto, perché diciamo De Gennaro resta il responsabile istituzionale di quello che è successo, anche in assenza assoluta di responsabilità penali, per carità, io quelle non gliele voglio dare, però tu sei il capo dell'istituzione e rispondi dell'istituzione, hai mandato i tuoi uomini e quegli uomini invece sono stati non solo protetti, mantenuti e promossi tutti, soprattutto, no? Ecco, e evidentemente anche lui è stato, diciamo, tenuto dentro i piani alti delle istituzioni italiane, e una volta uscito dall'ambito istituzionale è andato a svolgere un ruolo che è ancora comunque, diciamo, pubblico. Sì, sì, è pubblico di prima grandezza, anche perché poi Finmeccanica, insomma, difesa e sicurezza, stiamo parlando di una cosa molto, molto delicata. Allora, io devo ringraziare i nostri ospiti, io mi tengo la mia opinione alla fine, anch'io sono per la legalità e non sopporto chi attacca le forze di polizia, credo che però quella notte si fossero avuti fatti gravi, i governi successivi dovevano sia chiedere scusa che in qualche maniera far valere la responsabilità istituzionale del capo della polizia. Questa resta la mia modestissima opinione di ultimo tra i cittadini, perché di queste vicende le ho seguite molto meno direttamente di quanto abbiano fatto Gianni Barbacetto e Gianmarco Chiocci, che ringrazio e che hanno seguito i fatti fin da quelle ore. Allora, continuate con la 24, appuntamento con me a domani.